Sono come un pupazzo di neve, perché se mi abbracci senti solo il freddo. E sei felice se fuori fa bello, ma non ti accorgi che mi sto sciogliendo. Io che avevo due bottoni come occhi e due bastoni come braccia, un sorriso finto sulla faccia. Non avevo il collo però avevo la tua sciarpa, e anche se non mi scalda per me è già abbastanza. E ci siamo sorrisi in tutti i selfie, poi ci siamo anche fottuti in tutti i sensi. E ora che mi sbatti in faccia i fallimenti, sei così fredda che il tuo cuore batte i denti. Sai, leggevo che al polo nord, oh, si stanno sciogliendo gli acciai, e se si sciolgono loro, beh, figurati noi, oh, oh, oh, oh. Quindi figurati noi, oh, oh, oh, oh. Quindi figurati noi. E non mi scioglierò, e non ti scioglierò. E lo so che è scontato, ma quando mi hai scordato sono rimasto scottato. Quanto mi è costato vedere arrivare la primavera. Il tempo passa, tipo che eri primavera, ma adesso falsa. Nelle mie foto il mio viso sorride, sì, ma gli altri momenti non li vedi. E avrei così bisogno di dormire che neanche i miei discorsi stanno in piedi. Ed ho preso il numero per vederti a luglio, ma è troppo che mi chiedo quando arriva il mio turno. Ho un cerchio nella testa grande, sembra Saturno. Ci vediamo se ti va, ti aspetto dopo l'autunno. Sai, leggevo che al polo nord, oh, si stanno sciogliendo gli acciai, e se si sciolgono loro, beh, figurati noi, oh, oh, oh, oh. Quindi figurati noi, oh, oh, oh, oh. Quindi figurati noi. E non mi scioglierò, e non ti scioglierai. Saremo freddi sempre, come i ghiacciai. Figurati noi. E non mi scioglierò, e non ti scioglierai. Saremo freddi sempre come i ghiacciai. E non mi scioglierò, e non ti scioglierai. Saremo freddi sempre come i ghiacciai. Quindi figurati noi.